Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Venezia, 1910. Processo a Maria Tarnowska, la Dark Lady russa. Uno dei delitti che ha più colpito l'immaginazione dei nostri nonni, anzi ormai decisamente bisnonni, è quello che vide coinvolta agli inizi del Novecento la contessa russa Maria Tarnowska, una figura teatrale e mistificatrice, a cominciare da quel titolo nobiliare, cui Punta di Gotha non avrebbe avuto diritto a seguito del suo divorzio. Maria Tarnowska era una di quelle donne per le quali i nostri cugini francesi coniarono un'ineffabile definizione, Grand Horizontal, e definizione insieme squisita e maligna, e in realtà intraducibile come spesso avviene per le acutezze di quella lingua. Non che Maria esercitasse in senso stretto il mestiere di cortigiana, ma certo la sua parabola è quasi un esempio di scuola di quel connubio di sesso, avventura, denaro e crimine che animeranno tanta parte della letteratura popolare fino ai nostri giorni. Maria Tarnowska appartiene di diritto all'ondata di fascino slavo che, al seguito dell'entusiasmo per la narrativa russa, si riversa in un'Europa annoiata in attesa di nuove guerre. Non molti anni prima un'altra giovane russa, Lou von Solaum, aveva terremutato la vita di Friedrich Nietzsche, una donna di cui si disse che tutti gli uomini che l'avevano conosciuta, dopo 9 mesi, avevano messo al mondo un libro. E più modestamente Maria opera a un livello meno eccitante dal punto di vista intellettuale, non si arrischia con filosofi e scrittori, gente peraltro in genere poco affidabile sul piano delle finanze. È più le demi-monde degli aristocratici in decadenza e dei borghesi arricchiti il suo campo di battaglia. Circondata da una piccola corte di spasimanti e idolatri, Maria attraversa l'Europa seminando una devastazione che non dà certo principio a capolavori del pensiero, semmai riempie le carte di avvocati e giudici e spesso gli ospedali di malcapitati entusiasti. Collezionista all'epoca del fattaccio già di almeno 14 amanti, di cui diversi deceduti per duello o assassinio, Maria pensa di sistemare con un ultimo colpo di teatro per sempre le sue finanze. Fa sottoscrivere al suo spasimante dell'ora una polizza sulla vita a suo nome di 500.000 rubli, che non sono mica pochi, qualche milioncino di euro al cambio attuale, che però si possono riscuotere solo a morte avvenuta e quindi bisogna provvedere. Allora izza un nuovo amore contro di lui, sfruttando abilmente il rammollimento cerebrale dello stesso, come allora si diceva degli imbecilli. Sussurra nell'orecchio dello stolto di diaboliche persecuzioni, di insidie subite, di orribili torture. Il poveretto abbocca e non sa che il tutto è concertato da Maria, in combutta con un terzo uomo, destinato a godersi alla fine del gioco la bella e i quattrini. E se qualcuno adesso tira fuori La fiamma del peccato di Billy Wilder, ha proprio ragione. L'assicurato viene ucciso, ma i modi sono così fessi che anche la non troppo brillante polizia savoiarda non ci mette molto a svelare l'arcano. Il delitto era torbido e maturato in un ambiente ancora più torbido. Niente di meglio per estasiare pubblico e gazzette dell'epoca. Ma in fondo non era molto diverso da altri consumati in quei tempi, senza altrettanto furore di cronache. Quello che è più interessante è la linea difensiva adottata dal suo avvocato, che per la prima volta si avvalse delle teorie freudiane per lenire le responsabilità della donna nella vicenda, giocando soprattutto sull'isteria sessuale, una categoria già messa in pista dalla psichiatria francese di fine Ottocento, ma che il grande viennese aveva rielaborato e elevato al rango quasi di categoria dello spirito. Maria ammalia spettatori e corte, dai membri della quale riceve addirittura bigliettini amorosi e se la cava con una condanna mite, 8 anni, di cui sconterà in prigione soltanto una parte. Anche i esecutori e complici se la cavano con poco, 3 e 10 anni. In sostanza, la corte accoglie l'idea, molto fin de siècle, che la passione sessuale stravolge il libero arbitrio, nonostante l'avvocato di parte civile non risparmi sforzi per mettere in luce il cinismo e la fredda ferocia dell'ispiratrice dei fatti. Liberata nel 1915, Maria si darà a peregrinazioni sudamericane, la nuova terra promessa degli avventurieri a cavallo tra le due guerre, e lì morirà nel 49, praticamente e forse ingiustamente dimenticata. Giulio Leoni in libreria con La regola delle ombre, Mondadori, 415 pagine, 19 euro.